Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9:08, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta. La mail vivavoce@radio24.it. Alcuni ricercatori si sono messi provocatoriamente in vendita su eBay, il sito internet di Aste. Occasionissima, offresi lavoratori precari della ricerca. Altri ieri erano sotto l'ufficio del ministro Brunetta, con cartelli del tipo AAA vendesi cervello. Qualcun altro manifesterà ancora oggi davanti al Ministero dell'Istruzione, altri hanno scritto allarmati al Presidente della Repubblica Napolitano. Insomma, il mondo dei ricercatori italiani è in subbuglio. Quelli che lavorano negli enti pubblici di ricerca, che ne so, per citare magari quelli che sentite più famosi, il CNR, l'Istituto di Vulcanologia, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, ma ce ne sono tanti ovviamente, ce l'hanno con una norma in discussione alla Camera, definita per l'appunto da loro ammazza precari, che sostanzialmente blocca la stabilizzazione dei precari nella pubblica amministrazione, una stabilizzazione che era prevista nelle precedenti finanziarie, è stata tolta dal nuovo governo. Per Brunetta bisogna tornare al principio che per entrare nella pubblica amministrazione si deve vincere un concorso. Questi contratti non vanno bene, i ricercatori però lanciano l'allarme. Attenzione, nel mondo della ricerca il precariato è una sacca molto forte, ci sono istituti con il 40-50% di precari che portano avanti ricerche che ci mettono anche all'avanguardia a livello scientifico italiano. Rischiamo così di affossare un settore cruciale per il nostro paese. Brunetta abolisce la ricerca, si sente urlare nelle manifestazioni. Brunetta ammazza i precari, addirittura qualcuno dice la ricerca in mutande. Insomma, di questo ricercatori in subbuglio parliamo oggi. E con chi? Voglio salutare l'onorevole Giuliano Cazzola del Popolo della Libertà. Buongiorno e benvenuto, Cazzola. Buongiorno, grazie, bentrovato. Così come saluto Cesare Damiano, onorevole del PD e ministro del lavoro nella scorsa legislatura. Benvenuto, Damiano. Buongiorno, grazie. E noi andiamo subito a dare le borse, poi partiremo con Francesco Filippone, che è già con noi. Io ho detto, qualcuno ha mandato degli appelli anche accorati al Presidente della Repubblica Napolitano. Eccolo qui, un ricercatore del CNR che ha fatto questo. Filippone, alle 9:12 minuti, tra l'altro, grazie a Deborah Rosciani, vi annuncio che nella seconda parte di trasmissione ascolteremo anche un'intervista a uno che di ricerca se ne intende, Mario Capecchi, che forse lo ricordate, l'anno scorso premio Nobel per la medicina, nato in Italia ma a 9 anni emigrato negli Stati Uniti, ci parlerà di ricerca, capiremo che cosa succede negli Stati Uniti. Allora, il mondo della ricerca in subbuglio, Francesco Filippone, ricercatore al CNR, primo firmatario insieme a un collega, a una collega, dell'appello al presidente Napolitano. Perché rivolgersi addirittura al capo dello Stato, no? Filippo? Intanto buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori e agli onorevoli Cazzola e Damiano, perché non ho potuto salutare prima. Ci siamo rivolti al Napolitano perché Napolitano si è già dimostrato sensibile a questa problematica. Qualche mese fa gli è stato presentato un appello che andava in direzione della difesa della ricerca pubblica da parte dell'Osservatorio della Ricerca, così come che è lo stesso sito che sta ospitando in questo momento la nostra raccolta di firme. E quanti sono al CNR i precari, secondo le stime? Dunque, rispondo alle ultime stime che ho avuto modo di controllare, siamo tra i 3.000 e i 3.500 circa. Perché l'accusa di dire, l'accusa molto forte a dire, il governo affossa il mondo della ricerca, che voglio dire, detta così, insomma, già sulla ricerca abbiamo dei passi, siamo molti passi indietro rispetto all'estero, insomma, voi ci andate giù pesanti con questa accusa? Beh, sa... Intanto il problema solito della cronica mancanza di fondi è un problema che non è di oggi ma è pluridecennale, ma in ogni caso il punto fondamentale è che la ricerca la fanno le persone. Allora, se ci sono stati anni di blocco delle assunzioni e dal 2002, da tutto il 2002 fino a tutto il 2006 c'è stato blocco delle assunzioni, non c'è stato modo di far entrare persone nel mondo della ricerca, mentre i ricercatori di ruolo andavano in pensione. Alla fine si rischia di chiudere dei laboratori, come ho già visto succedere nella mia area di ricerca. Allora, l'impegno primario non può che essere nel reclutamento delle persone. In questo momento noi non abbiamo un percorso di carriera chiaro, la carriera è molto fumosa, si può entrare con miliardi di strade differenti e soprattutto, visto visto la fatica che sta facendo la mia generazione, io ho 39 anni, parlo grosso modo dei 35-45 anni, i giovani se ne vanno. Sento dire professori universitari che non riescono a tenere i propri studenti in gamba, laureati in gamba, neanche per il dottorato. Vanno fuori già subito per il dottorato. Mi spieghi perché bisognerebbe stabilizzare i precari? Voglio dire, sarebbe una cosa, quando si dice nella pubblica amministrazione si entra per concorso pubblico, non le sembra quasi un'ovvietà, o meglio quello che tutti negli anni si sono tramandati, invece non è così? Allora, la sua domanda è duplice. Il primo punto, allora partiamo dal secondo punto. Noi abbiamo fatto delle prove concorsuali. Chi ha avuto una chiamata diretta ha poi comunque subito, diciamo così, una prova valutativa prescritta dalla norma di legge, dalla finanziaria del 2007. E quindi tutti noi abbiamo fatto prove valutative. In più, per fare gli assegni di ricerca, per fare il dottorato, almeno questo, tutti noi abbiamo già subito delle valutazioni concorsuali. Non è che siamo stati chiamati dal responsabile di turno per strada. Siamo tutte persone che hanno compiuto processi valutativi, che hanno subito processi valutativi nel corso degli anni. In più, perché stabilizzare? Perché, come le ho detto prima, la ricerca viene fatta dalle persone, il sapere sta nelle persone. Le persone in gamba si tengono, non le si fanno andare via, perché quando una persona va via non solo la persona in sé, ma anche la sua competenza. E su questo è stato chiarissimo, poi torneremo a capire anche per esempio quanto guadagna un ricercatore precario. Onorevole Cazzola, lei tra l'altro è il primo firmatario del disegno di legge 1441, quello in cui c'è questo emendamento. Il governo italiano, relatore. Il governo italiano sta affossando la ricerca? Questa è l'accusa molto dura che viene dal mondo della ricerca. Io mi rendo conto che i problemi sono difficili, di difficile soluzione, che ci sono delle aspettative legittime, però non credo che questa accusa possa essere rivolta al governo, che in qualche modo con l'emendamento presentato all'articolo 37 bis cerca di risolvere un problema che si trascinava per anni, nel senso che il governo con questo emendamento riapre i concorsi, li riapre nel prossimo triennio. Tra l'altro, essendo le norme di stabilizzazione previste dalle norme precedenti, dalle leggi precedenti ancora in vigore, è previsto che possono essere effettuate le stabilizzazioni in base alle vecchie norme entro il 30 giugno del 2009, perché poi dal 1 luglio entrerà in vigore la nuova normativa, risolve una situazione, tenta di risolvere una situazione che altrimenti era insostenibile, perché non è che si può aggirare così facilmente la Costituzione rivolgendosi a Napolitano. In secondo luogo va anche tenuto presente che i governi passati avevano stabilizzato, sì, avevano promesso la stabilizzazione dei precari, però non ci avevano messo le risorse necessarie. Questa è l'accusa, per esempio, che lei può fare anche a Damiano, che è qui. Damiano anche lui faceva quello che poteva, nel senso che i soldi non c'erano. Per stabilizzare tutti i precari che si sono formati, diciamo, nel tempo, nella pubblica amministrazione, ci volevano indubbiamente risorse che nessun governo era in grado di disporre. Quindi, poi l'altra cosa che voglio dire è che quando si dice che i contratti a termine della pubblica amministrazione devono rientrare nelle regole generali, si fa coerentemente la stessa operazione che Damiano ha fatto nel mondo del lavoro privato. Il settore della ricerca però non è diverso, cioè quello che ci ha detto Filippone, cioè si rischia di perdere quel sapere che in questo mondo particolare è legato alle teste pensanti che ci lavorano. Diciamo, noi abbiamo fatto in questi anni dei guasti con i blocchi dei turnover, con il ricorso a contratti di lavoro precario, abbiamo fatto dei guasti. Cioè, non è così semplice, non è che noi possiamo aggirare la Costituzione e pensare, diciamo, che risolvere il nostro problema sia anche quello di risolvere un problema di carattere generale. Onorevole Damiano, l'accusa sostanzialmente era dire si era promessa la stabilizzazione nel precedente governo, ma i fondi non c'erano, quindi era una promessa vana sostanzialmente. Ma allora, io vorrei cercare di mettere qualche puntino a posto. Allora, intanto che ci siano stati dei guasti nella pubblica amministrazione nel tempo è evidente, il blocco delle assunzioni, il conseguente aggiramento del blocco attraverso altre assunzioni cosiddette precarie sta sotto gli occhi di tutti, però gli errori che si sono accumulati negli anni non possono essere fatti pagare ai giovani e meno giovani, ai ricercatori o a tutti quelli che stanno precari nella pubblica amministrazione. La politica fa il dovere di intervenire. Noi siamo intervenuti, io mi sono occupato, come tutti sanno, di impiego privato per stabilizzarlo, altri, il ministro Nicolai si è occupato dell'impiego pubblico. Abbiamo provveduto ad andare per gradi, sapevamo bene di fare il conto con delle risorse limitate, tant'è che siamo andati per gradi, abbiamo selezionato coloro che avevano i contratti a termine di durata non inferiore ai 3 anni per procedere gradualmente alla stabilizzazione. Ora, perché questo governo cancella la norma? Si dice, beh, perché c'è il problema del concorso. Tutti sanno, e lo ignorano, che la soluzione individuata dal governo Prodi ha già conciliato il principio costituzionale del concorso pubblico attraverso una richiesta esplicita di prove selettive di natura concorsuale, come ha spiegato il ricercatore poc'anzi. Sì. Non sono persone che non hanno passato una prova. Sono persone che da lunghi anni maturano un'anzianità, hanno una precarietà, si aspettano una stabilizzazione, sono quei giovani, ormai meno giovani, di alta qualifica nel caso della ricerca, poi ci sono quelli che non sono nel campo della ricerca, ai quali noi diciamo costantemente di mettere la testa a posto, di farsi una famiglia e poi al momento giusto, quando sta per maturare un loro diritto, glielo togliamo da sotto il naso. Allora, io credo che questo sia un fatto estremamente grave, anche perché ci sarebbero delle ripercussioni non secondarie. Si è parlato, lei lo faceva all'inizio, dell'Istituto di Vulcanologia. Sì. Licenziamo quelli che fanno il monitoraggio della situazione per quanto riguarda i rischi dei vulcani o i rischi sismici di tutta l'area meridionale dove lì dell'Italia. Pare che siano al 40-50% dovrebbero essere precari. Ma sarebbe una cosa pazzesca. Inoltre voglio anche ricordare che questa misura che il governo ha voluto e che deve ritirare, secondo me, avrà un impatto non solo sui ricercatori, ma su almeno 60.000 persone che vedrebbero svanire la possibilità. Beh, sì, perché la norma ovviamente riguarda tutta la stabilizzazione della pubblica amministrazione. Dopodiché il governo è stato costretto dalla mobilitazione dei ricercatori, dei precari, della nostra battaglia di opposizione, a fare una piccola deroga che però a noi non basta, perché doveva scattare entro 3 mesi dal varo della norma questo taglio alla stabilizzazione, adesso l'hanno spostata al 1 luglio del 2009, così come abbiamo fatto salve alcune procedure di stabilizzazione in corso per le quali si sia sostenuta questa prova, diciamo, di natura concorsuale. Da questo punto qualche di vista spostamento l'hanno fatto, ma non basta. Di qualche mese, sì, dica Damiano. No, voglio solo alcuni, perché sia Brunetta che adesso Cazzola fanno riferimento alla norma dei 36 mesi che io ho introdotto nell'impiego privato. Però Giuliano, onestà intellettuale vuole, perché tu lo sai, che quando io ho introdotto la norma dei 36 mesi, la norma, che ha una deroga di 8 mesi concordata tra le parti sociali, ha esattamente il principio opposto, quello di impedire l'utilizzo del contratto a termine a tempo infinito per consentire dopo quel periodo la stabilizzazione, perché la norma dei 36 mesi nel privato porta le parti sociali, sindacato, impresa, a stabilizzare, non a non stabilizzare le persone, sulla base del principio che va bene la flessibilità in entrata, ma quando tu quella persona, soprattutto un giovane qualificato che ha una scuola alle spalle, l'hai guardato bene, sai come lavora, sai chi è, dopo 36 mesi, se non butti via le risorse umane, te lo tieni e lo stabilizzi nel tuo ciclo. Tra l'altro ci scrive una mail dal Belgio, perché questo è il bello anche della radio, insomma, come sapete la si può ascoltare in diretta dal nostro sito internet. Vi ascolto via internet dal Belgio, sono un cervello in fuga, tra virgolette, come studente studente di dottorato, qui prendo 1500 euro netti al mese, tredicesima, lavoratore a tutti gli effetti, assicurazione sanitaria di base, ferie, eccetera. Questo mi consente di vivere una vita normale. Onorevole Cazzola, perché lei ha detto addirittura aggirare la Costituzione nell'appello? Perché la Costituzione prevede che nella pubblica amministrazione si accede per concorso. E tra l'altro noi abbiamo una serie di persone che sono vincitori di concorso che tra l'altro oggi reclamano per esempio di avere un ruolo, di avere un diritto rispetto alla stabilizzazione dei precari. Tra l'altro questa è una norma che abbiamo inserito con un emendamento nell'articolo 37 bis. Vede, diciamo, Damiano ha ragione quando dice che l'ottica che lo muoveva nel mondo del lavoro privato era diversa, però non è che trascorsi 36 mesi c'è il passaggio automatico a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Si dice che i contratti a tempo indeterminato non possono durare più di 36 mesi, salvo le deroghe che poi sono state introdotte. Cioè c'è un'esigenza in qualche modo di sanare questa situazione e questo governo, io credo giustamente, non è più disposto a riconoscere che chi ha avuto un rapporto con la pubblica amministrazione acquista un diritto prima o poi ad entrarci per una porta principale. Insomma, questo diciamo. Però li avrà letti anche lei? Oggi so che il ministro Brunetta infatti ha chiamato tutti i presidenti degli istituti di ricerca, si vedrà oggi per cercare di capire quanti sono precari infatti, in ogni istituto. C'è questa norma. Cioè nell'istituto di vulcanologia per esempio il 40% di precari, ed è un istituto considerato all'avanguardia mondiale. Allora l'istituto di vulcanologia può fare un concorso? Può fare un concorso e consentire al 40% dei posti ai lavoratori che hanno una serie di requisiti di anzianità anche nei contratti a termine, vedi questo passo, c'è tutta una lunga spiegazione della norma e di entrare per la porta per la nel porta frattempo però nel frattempo però nessuna deroga, insomma chi è precario ovviamente se l'istituto di vulcanologia è in condizione, ha fatto le selezioni è in grado, tra l'altro anche la selezione non è una cosa che garantisce tutti, la selezione è una specie di concorso di seconda categoria, diciamo. Stava dicendo concorso truccato, Cazzola. No, stavo per dirlo, no, poi mi sono fermato. Si è fermato, no, sai perché? Mi sono fermato perché ovviamente bisogna essere politicamente corretti. Sì, però, non, insomma, non lo è per anche, esempio. Anche l'aver messo una selezione non è una cosa che garantisce tutti, perché comunque la selezione deve essere superata. Non lo è, no? Per esempio, corretta o politicamente corretta, Valentina, che ci ha scritto una mail da Firenze, ma tra l'altro ripartiremo subito dopo la pubblicità anche dagli ascoltatori, a dire quello che dice Filippone, dal quale voglio tornare poi, non è tanto vero, perché si sa che il concorso cosiddetto, abbiamo superato un concorso, nel 90% dei casi era finto. Insomma, Cazzola non ha usato questo termine, stava dicendo truccato, ma poi per il politicamente corretto si è fermato. Allora noi andiamo un attimo in pubblicità. 800 24 00 24. So che l'onorevole Damiano probabilmente ci deve lasciare per un impegno. Le 9 e 32 minuti, la seconda parte di Viva Voce, stiamo parlando del subbuglio che c'è nel mondo della ricerca. Oggi ancora i ricercatori, molti ricercatori con i sindacati ovviamente nel mondo della ricerca saranno davanti al Ministero delle Istruzioni per protestare contro una norma che blocca tutto quel processo di stabilizzazione dei precari nella pubblica amministrazione, dunque anche nel mondo della ricerca, in discussione alla Camera. 800 24 00 24 per intervenire. Marcello da Roma, buongiorno. Buonasera, professore universitario da 38 anni alla Sapienza, abbastanza esperienza, riassumo rapidamente il problema del precariato. Primo, la legge Ruberti, i provvedimenti Ruberti hanno provocato fondamentalmente la parcellizzazione dell'università in Italia, creando università inutili, parlo delle piccole università, per alcune perlomeno, che sicuramente hanno succhiato e drenato risorse in quanto sono servite da una parte per sistemare personale locale, dall'altra per creare e realizzare quello che si chiama la carriera dei professori universitari, servendo poco al territorio. Secondo, non c'è stato uno studio sistematico dei flussi pensionistici nelle singole facoltà che potessero permettere la razionalizzazione dell'assunzione dei giovani, perché nei comuni, nella pubblica amministrazione, se c'è un posto libero non si emettono 1000 borse di studio. In Italia oggi siamo 63.000 docenti per 1.334.000. Questo è il precariato studenti. Nel mondo della docenza, insomma. Perché la dice sinteticamente, ma l'ha presa da lontana, Marcello. Venga al punto sulla questione del mondo della ricerca, che il mondo della ricerca è legato al mondo della scienza universitaria. Allora io gli dico che oggi noi abbiamo 40.000 precari, la cui età media è di circa 35 anni, per molti di questi ci sono dei drammi, ma per tanti di questi io vorrei chiedere loro come mai si sono attardati così tanto a rimanere in un mondo che chiaramente poteva offrire loro molto poco, anche in termini di remunerazione, perché oggi a 34... E lei che risposta si dà? Cioè perché si sono attardati in questo... Perché forse non abbiamo trovato niente di meglio, perché secondo me questo è legato anche alla mediocrità delle persone che oggi si affacciano all'universitario. L'università è in grossa decadenza, grossissima decadenza. La fuga dei cervelli avviene perché in Italia chi veramente ha la testa, ma non ci resta a 2 lire, se ne va all'estero perché è ben pagato e ben riconosciuto. Su questo vedremo anche tra poco da Filippone sugli stipendi. Arrivo subito. Prima un'altra ascoltatrice, Lorella da Roma. Buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io sono il direttore amministrativo di un istituto di ricerca pubblico afferente però al Servizio Sanitario Nazionale. Con tutte le perplessità che ho rispetto alle norme sulla stabilizzazione, perché poi in realtà sono molto vaghe rispetto a questi benedetti concorsi, che nessuno poi chiarisce che i concorsi devono essere fatti sul territorio nazionale e quindi in teoria farei un concorso incostituzionale se riservassi tutte precari, però volevo sollevare una questione. Nel corso degli anni il rientro dei cervelli, tutta quella politica del rientro dei cervelli ha portato anche nel nostro istituto a stipulare contratti con dei ricercatori bravissimi che lavoravano all'estero e che sono quindi rientrati. Però questi ricercatori bravissimi hanno titoli di studio che poi non sono dei requisiti essenziali per poter accedere a dei concorsi pubblici che io adesso dovrei fare. Faccio un esempio: per poter assumere un biologo, un ricercatore, un microbiologo, che da noi appunto ce ne sono diversi, per la legislazione del servizio sanitario loro devono avere la specializzazione oltre la laurea, mentre questi ricercatori hanno tutti i dottorati di ricerca, master, quindi se io dovessi fare un concorso dovrei escludere proprio questi ricercatori che sono i più bravi. Sì. Volevo sapere come fare. Non so, Cazzola ha una risposta pratica da dare alla nostra dirigente amministrativa. La cosa che voglio dire io è questa. No, anche per rispondere alle considerazioni che faceva il professore universitario con 38 anni d'anzianità, è chiaro che queste persone non se ne sono andate perché era invalsa in loro la speranza che prima o poi avrebbero trovato un posto nella pubblica amministrazione, perché è sempre successo così, è successo così nella scuola pubblica, in Italia c'è sempre qualche santo che provvede in questi casi. Io voglio ricordare però che il comma 7 dell'emendamento del governo prevede appunto un monitoraggio di queste situazioni, prevede un'analisi concreta fatta con le pubbliche amministrazioni per vedere qual è la problematica, qual è la qualità di questo personale, dove è dislocato, in modo di poter ragionare con non con una legge di grandi numeri, in modo di poter ragionare con delle situazioni concrete. Cioè ci possono essere delle deroghe, mi sta dicendo? No, perché la norma, no, se viene approvata, è quella. È previsto un monitoraggio, no? Che le amministrazioni indicano per ciascuna unità di personale la qualifica posseduta, la data di inizio del relativo rapporto. Cioè c'è un disegno di maggiore conoscenza delle situazioni per vedere innanzitutto qual è la quantità del fenomeno e per vedere come intervenire. Quindi, insomma, tra l'altro teniamo conto che questa norma così è uscita dalla Commissione Lavoro, va in aula, torna al Senato. Quindi io credo che il governo sia disponibile a trovare delle soluzioni ragionevoli. Quindi potrebbe anche essere... Lo ha già fatto, no? Lo ha fatto ritirando il primo emendamento e proponendone un altro. Siamo al primo atto, che è l'approvazione in commissione. No? Francesco Filippo... C'è la Camera, c'è il Senato. C'è tutto un iter, si può modificare qualcosa, sta dicendo, no? Il governo si è aperto al Senato o in Aula, alla Camera, accettare delle considerazioni che siano ragionevoli, però all'interno di un'impostazione che non sia quella di dire todos caballeros, in buona sostanza. Ci siamo seduti dietro una scrivania della pubblica amministrazione, ci siamo stati per anni per come funzionano le cose in questo paese e anche per scelte nostre, però insomma dobbiamo in qualche modo... Questa l'ha rubata Brunetta, Todos Caballeros, Cazzola. No, beh, questa è una roba legge come il cucco del Todos Caballeros. No? Filippone, Francesco Filippone, così se vuole innanzitutto replicare a quello che si è detto anche la questione dei concorsi, un'ascoltatrice, una mail ci è arrivata, ha detto ma che concorsi, diciamo la verità, sono tutti... Cazzola si è fermato sul stava dicendo truccati, ma insomma finti concorsi. E poi le chiedo anche quanto guadagna un ricercatore precario mediamente? Allora, dunque, per quanto riguarda i concorsi, io non so rispondere alla signora di Firenze. Voglio dire, io i concorsi che ho fatto sono sempre stati non truccati, per quanto mi riguarda. Se poi ce ne sono altri che sono truccati, ci vorrà la magistratura che deve indagare su queste Vabbè. Cose. Bisogna fare delle cose che possono essere, come dire, garantite dalla legge, e la Costituzione ci garantisce in questo senso. Poi volevo dire anche al professore di Roma che sì, io sono anche andato all'estero e sono tornato. Io ero in Germania, sono stato 2 anni in Germania, ho fatto le mie esperienze in Germania e poi sono tornato per motivi personali e perché ho trovato un laboratorio nel quale mi si permetteva di poter fare della ricerca di ottimo livello, tant'è vero che siamo continuamente in competizione con gruppi americani ed europei. Quindi voglio dire, non è che restano solo i mediocri. Tornano anche quelli in gamba, ma certo, mediamente in gamba. Riguardo invece agli stipendi, quanto... Riguardo agli stipendi, guardi, io guadagno circa 1.600 euro al mese e sono ricercatore terzo livello, quindi livello di ingresso. Ma lei rischia di rimanere appiedato? Rischia di rimanere appiedato, sì. Se passa questa norma, ovviamente. Sì, chiaramente. 1.600 euro, l'idea di, non so, di ritornare all'estero, di approfittare di altre occasioni, lo so che è brutto dirlo così, come dire andatevene, nel senso che certo. Il mondo della ricerca, non tanto e non solo per questa norma, il mondo della ricerca in Italia insomma vive grandi difficoltà. Io ho un dato davanti a me che tra poco citerò, dica, comunque che ne pensa lei di poter riandare via? Estrema ratio, evidentemente ci penso. È chiaro che giunti a questa età, quando uno poi ha una famiglia sulle spalle, non ha più 25 anni, comincia a diventare anche difficile, c'è una certa inerzia a muoversi, a cercare anche le migliori occasioni spostandosi di più di 1.000 chilometri da dove si trova. Però l'ha sentita l'idea di dire Todos Caballeros? No, cioè voglio dire, c'è una Costituzione da rispettare, ci sono dei concorsi da ripristinare. Sono d'accordo, anzi se dobbiamo dirla tutta, un errore, diciamo così, nella norma di stabilizzazione è che si teneva conto solo dell'anzianità e non del curriculum scientifico, almeno per quanto riguarda la parte di ricerca scientifica. Tant'è vero che i miei 2 anni all'estero non contano come anzianità, ho una collega che ha fatto circa 10 anni all'estero e le contano soltanto quei 2 o 3 anni che ha fatto qui in Italia, che è un controsenso dal punto di vista della ricerca scientifica. E poi per quanto riguarda i concorsi, ma se non sono stati fatti per 5 anni, ma quanto tempo ci vuole per sanare delle posizioni che sono state create a causa dell'aggiramento, come diceva prima Damiano, di questa norma? Io ho l'esempio, dal CNR sono stati banditi dei concorsi nel 2004 in deroga e i vincitori del concorso sono stati assunti nel 2008, gennaio 2008, scusi. Allora, uno come mangia? Mi lasci, bella questa domanda, mi lasci salutare Salvatore Stramondo, buongiorno, che è ricercatore all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di cui abbiamo parlato, benvenuto Stramondo. Buongiorno. Allora, prima un altro ascoltatore, poi sono da lei, Bruno da Verona, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti, anche ai radioascoltatori. Io voglio dire semplicemente questo: il mondo del precariato è un mondo oscuro, in cui stipendificio, raccomandificio, eccetera, eccetera. Per carità, ci saranno anche tantissimi bravissimi ricercatori, insegnanti, eccetera, però sono figli di un Dio maggiore. Allora, ci sono giovani che per mille figli, perché stiamo parlando dell'Italia, che non accompagnati dal santo giusto, perché hanno colto l'occasione, eccetera, per entrare in questo meccanismo perverso, sono umiliati, magari validissimi, ma umiliati all'esterno. Allora, il fare un concorso per occupare una posizione, nel caso specifico, nel campo scientifico, mi sembra, la minima regola di buonsenso in questo paese dove il buonsenso da anni sembra smarrito. Io credo che anche una radio come la vostra la quale credo che per estrazione supporti la meritocrazia, dovrebbe essere assolutamente, chiaramente schierata su questo fronte. Oddio, dovrebbe essere bello che la meritocrazia venisse sposata ai massimi livelli in Italia, solo da una radio come la nostra. Ma io non è una critica. Lo so, l'ho colta benissimo. No, ma io dico questo, non c'è dubbio, io potrei anche aggiungere allora che anche i concorsi sono talvolta oscuri in questo paese, però con questa logica non andiamo da nessuna parte. Sì, magari allora, più la gente, scusi, solo questo, noi tutti dobbiamo capire una cosa, la festa è finita, abbiamo un debito pubblico colossale, poche energie economiche, dobbiamo utilizzarle al meglio, allora bisogna che tutti ci diamo una regolata. Mi rendo conto che ci sono sacrifici, con grande rispetto io penso che probabilmente qualcuno resterà fuori dalla porta, ma soprattutto chi occupa in questo momento le posizioni di precariato nella ricerca avrà avuto modo di farsi grandissima esperienza. Perché hanno paura di un concorso? Grazie Bruno. Salvatore Stramondo, è vero che all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sono circa il 40% i precari? Sì, effettivamente è così. Buongiorno intanto, grazie per avermi permesso di partecipare a questa trasmissione che grazie agli ospiti in studio ha già toccato diversi punti che avrei voluto affrontare. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che è stato tra l'altro citato anche dall'onorevole Damiano, è uno tra i principali istituti di ricerca in campo sismologico e vulcanologico al mondo, credo sia il primo in Europa, il secondo dopo l'USGS americano. Parliamo quindi di numeri importanti, circa 1000 persone che lavorano all'INGV, 400 delle quali effettivamente sono precari a vario titolo. Diciamo. Secondo lei cosa succederebbe se passasse così questo principio, ovviamente, che blocca la stabilizzazione della pubblica amministrazione? Cosa succederebbe nell'istituto? Ma guardi, le rispondo citandole quello che è uno degli aspetti principali dell'istituto, cioè la sorveglianza del territorio nazionale, la sorveglianza sismica e vulcanica. L'istituto svolge un'attività di sorveglianza continua, H24, 7 giorni su 7, Natale, Pasqua, diciamo indifferente per noi. Lo sappiamo, siete i primi che chiamiamo appena c'è una lieve scossa dovunque. Esattamente. Noi siamo, abbiamo per come dire, quale compito istituzionale allertare la protezione civile e il Ministero dell'Interno appena si verifica una crisi sismica, certo, vulcanica. E se lei considera che ciò, grazie anche ovviamente alle nuove tecnologie, ai nuovi strumenti, molti dei quali tra l'altro prodotti qui in istituto, è possibile entro 1-2 minuti dalla scossa sismica, lei immagini anche che tipo di attenzione, che stato di attenzione occorre da parte del ricercatore, del turnista H24. No, ma mi 3 di notte è indifferente per noi rispetto immagino che ci siano insomma dei problemi. Onorevole Cazzola, io devo dare l'intervista a Mario Capecchi come promesso. Mi sono fatto un giro sui blog in subbuglio dei ricercatori. Sa come viene definito l'emendamento? Giusto per essere non politicamente corretti, emerdamento. Vabbè, ma sa, però come vede, quelli che poi telefonano, la gente normale che telefona, è più d'accordo col governo che con i ricercatori. Io voglio chiedere una cosa, a parte il fatto che nessun ministro è così matto da chiudere il centro di vulcanologia eccetera, e compagnia, no? Nel senso, non è che si abbandonano queste cose. Noi abbiamo recuperato un termine di 6 mesi. E dentro questo termine si devono fare delle cose che secondo me sono regolari, che rimettono il problema sui binari. Poi ovviamente si vedrà, penso che nessuno sia matto. Sì, matto da chiudere l'istituto, questo cosa, ne sono sicuro. Sì. Un ragazzo che si è laureato con 110 lode in vulcanologia l'anno scorso, cos'è, un disperato? È uno che deve passare dietro a tutti o uno che ha diritto di aspirare di sperare di entrare nell'istituto di vulcanologia. E quindi fare il concorso e mettere le proprie qualità. Allora, sentiamo Mario Capecchi, uno che di ricerca se ne intende, a 9 anni dall'Italia è andato negli Stati Uniti, è nato italiano, è ormai naturalizzato americano, ha vinto il premio Nobel per la medicina l'anno scorso e ci ha parlato di ricerca. Allora, qual è il problema della ricerca in Italia? Il talento in Italia c'è e non servono necessariamente più soldi per la ricerca, ma una migliore distribuzione per fare in modo che i giovani scienziati possano trarne vantaggio. Negli Stati Uniti il sistema garantisce che certi soldi vadano solo ai ricercatori giovani e ai poveri. Così puoi creare qualcosa. Lì è il futuro del vostro paese. Dunque, lei dice non è solo una questione di quanti soldi vengono dati alla ricerca, ma come vengono distribuiti. Infatti, bisogna dare questi fondi bene a chi si affaccia a questa professione, perché lì ci sono l'energia e l'entusiasmo. La distribuzione di denaro è la chiave di tutto. Deve essere efficiente e favorire i giovani. Qual è il rischio se non si fa così? Il rischio è grande. La scienza garantisce un futuro ed eventuali effetti negativi non li vedi ora, ma tra 10 o 20 anni, di colpo, quando potreste essere costretti a utilizzare la ricerca degli altri paesi. Investire in ricerca permette di sapere come indirizzarla. Al contrario, se è fatta da altri, non la si può utilizzare in maniera giusta. Ma è un problema di scelta politica, secondo lei? Innanzitutto ci vuole un buon sistema di valutazione. Dire questo progetto scientifico è positivo, questo no, e non va finanziato. Il sistema più efficace per farlo è la valutazione tra colleghi. Gli scienziati di un settore dovrebbero valutare se un progetto è buono, perché se ne intendono. Poi la distribuzione di fondi, come detto, deve privilegiare i giovani, in modo che inizino presto e siano indipendenti invece che dipendere da colleghi anziani. Qual è la differenza sostanziale tra Stati Uniti e Italia sul fronte della ricerca? La differenza è che da noi si danno possibilità ai giovani. Negli Stati Uniti, se un giovane ha una buona idea, trova i fondi, può portarla avanti in modo indipendente e provare il suo valore. Può far fruttare il suo talento. Per questo c'è la cosiddetta fuga di cervelli dall'Italia. Esatto, ed è un errore permetterlo. Non è negativo se lo fanno in pochi, ma se sono tanti sì, perché so che vorreste tenerli in Italia. In America chi investe nella ricerca? Il pubblico o anche le aziende private? Negli Stati Uniti le compagnie private non danno molti soldi, anche se potrebbero. Sono più interessate a farli, i soldi. È il loro ruolo. Così la ricerca di base è nelle università, circa il 95%. Poi le compagnie ne traggono vantaggio sviluppando prodotti. Ma lei è ottimista se guarda alla ricerca in Italia? Lo sono sempre perché, ripeto, il talento c'è. Bisogna capire che c'è un problema e poi risolverlo. È anche una questione politica. Prima ci vogliono idee e impegno. Poi i politici seguiranno. Lei però non rientra in quella casistica di fuga di cervelli che hanno trovato successo all'estero perché in Italia sono stati sottovalutati? No, sono andato via a 9 anni, ma sono ancora molto legato all'Italia. È un paese fantastico, con grande cultura e creatività. È un posto meraviglioso. La scienza è nata qui. Avete avuto Galileo, considerato il primo degli scienziati. Cosa consiglierebbe a un giovane ricercatore italiano che si trova in difficoltà, magari è precario e sta manifestando in questi giorni e vorrebbe vivere di ricerca in Italia? Direi loro di lottare. Nessuno ti dà nulla. Bisogna conquistarselo. Bisogna convincere gli altri che si è sulla strada giusta. Ed è anche importante per gli scienziati comunicare col pubblico. Per esempio, parlare con lei. Perché è il pubblico che deve sostenere gli scienziati, per cui è importante essere convinti di ciò che si fa. Se no, si mostra di non avere piani futuri. not making any future plans. Allora, questo ci ha detto il professor Capecchi, soprattutto ai giovani ricercatori, tenete duro, nessuno vi darà niente, molto americana come idea. Il dato che dicevo in chiusura, che avevo annunciato, la spesa in ricerca e sviluppo in percentuale sul PIL si calcola nei vari paesi, in Svezia stanno al 3,70%, negli Stati Uniti al 2,84%, in Germania al 2,29%, in Francia al 2,18%, in Olanda al 2,04%, tutti sopra il 2%, Gran Bretagna 1,83%, l'Italia 0,9%. 1% del PIL. Grazie a tutti, Elisabetta Fusconi e Mario e Alessandro Marcotulli in redazione, Giorgio Matè in regia. Ci ritroviamo domattina.